Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La conferma ufficiale ancora non c'è, ma ormai è chiaro che gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici verranno prolungati anche nel 2016. D'altronde possiamo dire che gli incentivi, le detrazioni per la precisione, sono stati l'unico strumento che ha impedito alla nave dell'edilizia, piena di falle e coi motori spompati, di andare definitivamente a fondo. Come al solito però siamo alla fine dell'anno e ancora non è chiaro di che quadro di incentivi godremo nel 2016. Allora proviamo così a lanciarci in qualche previsione con Mario Nocera, esperto di detrazioni fiscali dell'ENEA, l'Agenzia Nazionale per l'Energia, che gestisce appunto le detrazioni del 65%. Buonasera Nocera. Buonasera Melis. Allora, intanto ricordiamo brevemente quali sono ad oggi le principali tipologie di intervento ammesse a questi incentivi. La legge prevede la possibilità di portare in detrazione spese per la riqualificazione energetica globale dell'edificio, che significa sistema edificio e sistema impianto, ma anche interventi solo sulla parte di involucro, che possono essere coperture, finestre, solai, installazione di pannelli solari, oppure più semplicemente la sostituzione degli impianti di produzione di calore. Veniamo al prolungamento di questi incentivi. Tutti si chiedono cosa cambierà nel 2016. Lei si aspetta grandi cambiamenti rispetto alla situazione attuale? Guardi, nessuno di noi credo abbia la sfera di cristallo, però realisticamente, leggendo i quotidiani, si legge di una volontà di cambiare l'attuale sistema, premiando gli interventi che abbiano una maggiore efficacia in termini di risparmio energetico. Realisticamente è da verificare se questa ipotesi possa essere confermata dai tempi tecnici del governo. Perché questa è una delle ipotesi che sono circolate, ma oggi comincia ad esserci poco tempo e nessuno ha cominciato, che si sappia, a lavorare su questa nuova configurazione. Quindi la cosa più probabile è che il sistema cambi poco, insomma, diciamo così. Io guardo le cose come sono successe nel recente passato. Negli ultimi anni, realisticamente, c'è stata una proroga to cure del meccanismo, così come era stato concepito, certo con qualche piccola modifica. Certo, ma il meccanismo era rimasto sostanzialmente... Il meccanismo nel corso degli anni, dal 2007, è rimasta sostanzialmente invariata. Quanti posti di lavoro, bene o male, ha generato questo meccanismo? Voi avete qualche numero su questo? Sì, la nostra analisi è di natura puramente parametrica. Di fatto noi rileviamo che mediamente ogni anno si muovono circa 3 miliardi e mezzo di euro su questo meccanismo fiscale. E quindi di fatto, applicando questa metodologia parametrica, abbiamo verificato che nel solo corso del 2013, ad esempio, ci sono stati circa 53.000 posti di lavoro salvati da questi incentivi. E appunto, vista l'importanza comunque di questi numeri, ci si chiede spesso quale potrebbe essere lo scenario ideale di applicazione di detrazioni fiscali di questo tipo. Cioè, se non si potrebbero rendere più efficaci con qualche cambiamento, che forse questa volta non ci sarà, però insomma, voi avete fatto numerose proiezioni in merito e le chiedo quali sarebbero le modifiche di maggiore impatto su questo meccanismo. Guardi, a mio personale parere sono due le leve che possono incidere sull'efficacia o sul numero degli interventi da effettuarsi. Il primo certamente è quello del numero delle rate per il ritorno dell'investimento, perché comunque 10 anni vengono rilevati dagli operatori di sistema come comunque significativi. Troppo lungo, meglio troppo la metà, lungo, per esempio, la possibilità di scegliere sarebbe ancora meglio. E il secondo parametro che potrebbe incidere sull'efficacia e la fattibilità tecnica degli interventi è sicuramente un parametro di controllo tecnico-economico sui costi, cioè per capirci se io oggi sostituisco un metro quadro di finestra, che questo metro quadro di finestra costi 150 euro a metro quadro o 1000 euro a metro quadro, il mio incentivo è fissato in funzione dell'aliquota. Cioè mettere un tetto, perché se uno decide di mettersi una finestra tempestata di diamanti non gliela dobbiamo pagare per metà noi con i nostri contributi sostanzialmente. Uno dei ragionamenti alla base del motivo per cui si proroga l'incentivo sempre a fine anno è che se non si mette una scadenza gli incentivi, i cittadini non si danno una mossa. Però questo è un problema dall'altro lato, perché interventi più complicati che richiedono diversi anni nemmeno partono. Allora, una delle ipotesi è fare un decalage progressivo dell'entità. Primo anno 65%, dal secondo sia magari il 55%, dal terzo il 45%. Ecco, un meccanismo di questo genere, lei come lo vede? Guardi, la mia lettura è sulla base dei dati disponibili. Gli interventi che hanno una maggiore efficacia in termini di risparmio energetico sono quelli che necessitano di una programmazione in termini di tempi un po' più lunghi. Quindi incentivare in qualche modo la possibilità di una programmazione più organica credo possa portare comunque ad un beneficio diretto. Grazie Mario Nocera. La saluto, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.